Benvenuti. Allora, oggi ci tuffiamo in un argomento bello caldo, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi e come stanno, diciamo, scuotendo il mondo del lavoro. Eh sì, un tema enorme. Abbiamo sotto mano un'analisi interessante dall'agenzia Piemonte Lavoro, ma anche qualche spunto sulla corsa della Cina all'IA. Cerchiamo di capire, insomma. Giusto. L'obiettivo è vedere come queste tecnologie ridisegnano un po' tutto. Professioni, competenze, l'economia stessa, sia qui da noi, in Piemonte, sia a livello globale. Ok, analizziamo questo. Guarda, è un tema complesso ma super attuale. L'IA, sai, non nasce oggi. C'è Turing, le reti neurali, già negli anni 40. Certo, McLachlan e Pitts. Esatto, ma è ora, con il machine learning, i big data, che c'è stata questa accelerazione pazzesca. Sta entrando dappertutto. E qui, appunto, le fonti piemontesi toccano un nervo scoperto. Fanno l'esempio dei rider, no? O dei runner di Amazon. Sì, lavori che esistono tramite la piattaforma, l'algoritmo. Esatto. Nuove forme di lavoro. Mi viene in mente, sai, Deep Blue contro Kasparov, nel 97. Quello fu un momento. Un momento storico, certo. Ma era potenza di calcolo pura, diciamo. Forza bruta. Oggi invece? Oggi è diverso, eh. L'IA è più sfaccettata. C'è il planning, per dire. Google Maps che ti trova la strada, i robot nei magazzini Amazon che ottimizzano i percorsi. Ok, quello è un aspetto. Poi c'è il machine learning. Qui le macchine imparano dai dati, fanno previsioni. Pensa al retail, alle compagnie telefoniche. È fondamentale. Imparano da sole, in un certo senso. Sì, dagli esempi, dai dati. E poi c'è il deep learning, che è ancora più sofisticato. Reti neurali che imparano in modo complesso, quasi per tentativi ed errori. Impressionante. Ma attenzione, anche l'IA più potente ha ancora bisogno di una strategia umana dietro, una regia. Non è che decidono tutto da sole. Chiaro, serve sempre l'input umano, la direzione. E vediamo allora l'impatto qui in Piemonte. I dati Istat cosa ci dicono? Allora, l'Istat mostra che, rispetto al 2008, gli occupati sono calati. Soprattutto gli indipendenti hanno perso parecchio. Mentre i dipendenti? I dipendenti sono cresciuti un pochino, ma il dato forse più interessante o preoccupante è quello FTE, Full Time Equivalent. Cioè, spiega meglio. Praticamente misura le ore lavorate come se fossero tutte a tempo pieno. E questo dato suggerisce che la qualità del lavoro è peggiorata. Meno tempo indeterminato, più part-time involontario forse. Capisco, meno stabilità. Come si lega questo all'avanzata tecnologica? Sembra un paradosso. Qui entra in gioco la polarizzazione. È un concetto chiave. Ovvero? Ovvero, da un lato in Piemonte vedi crescere tantissimo le professioni super qualificate tra i dipendenti. Parliamo di figure intellettuali, scientifiche, più 35% di ore lavorate dal 2008 per loro. Ah, però... Quindi c'è domanda per alta specializzazione. Esatto. Ma dall'altro lato si espande la gig economy. Lavori, saltuari, spesso precari, gestiti tramite app. Tipo? Pensa a piattaforme come Mechanical Turk, dove fai micro lavoretti online per pochi centesimi, o ai rider di Foodora, Glovo, o servizi come Helpling per le pulizie. Lavori a chiamata, insomma. Sì, e qui si parla di grande disaccoppiamento. La tecnologia fa aumentare la produttività, ma l'occupazione generale e i salari medi, non tengono il passo, anzi. Quindi il risultato è pochi super qualificati che guadagnano bene e tanti lavori meno sicuri e meno pagati. Una forbice che si allarga, in sostanza, sì. Questo solleva una questione importante sulle disuguaglianze. In questo scenario, quali sono le figure professionali che emergono, quelle più richieste? Sicuramente il data scientist, una figura un po' ibrida, no? Deve sapere di statistica, di informatica, ma anche capire il business. Un mix di competenze. Proprio così. E poi, ovviamente, tutti gli specialisti ICT, programmatori, analisti software, esperti di cyber security, ingegneri, soprattutto informatici. Anche i dati piemontesi tipo Silpo o Wallibai lo confermano. E questo, immagino, cambia completamente le carte in tavola per le competenze richieste. Non basta più il saper fare di una volta, dico bene. No, decisamente. Servono le competenze STEM, ovvio. Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. Il CEDEFOP prevede una forte crescita in Italia per queste figure. Ma basta questo? Non proprio. Il coding, saper programmare, sta diventando quasi una seconda lingua. Ma poi servono anche altre cose. Pensiero critico, creatività, persino competenze umanistiche. Umanistiche? Davvero? Sì, serve saper pensare, non solo eseguire compiti. Guarda, c'è l'esempio di Slack, che assume gente con lauree in discipline teatrali per migliorare come parlano i loro bot. Incredibile! O il Guardian che suggeriva di mettere filosofi in azienda, per aiutare a ragionare sui problemi complessi, sull'etica. Filosofi in azienda, chi l'avrebbe mai detto? Questo sì che sfida le idee classiche sulle competenze utili. Però c'è un problema, mi pare di capire, tra quello che serve e quello che la formazione offre, no? Sì, in Italia abbiamo un grosso mismatch, un disallineamento. Mancano migliaia di laureati ogni anno proprio nelle discipline più richieste dall'economia digitale. È una bella sfida per scuole e università. Una sfida enorme. E se allarghiamo lo sguardo fuori dall'Italia? Alla Cina. Alla Cina è un capitolo a parte. Puntano fortissimo sull'IA. Investimenti massicci. Vogliono diventare leader mondiali. Si parla di un mercato AI che potrebbe valere quasi 155 miliardi di dollari entro il 2030. Sì, la Cina è emblematica. Fa vedere quanto contino gli investimenti mirati. Un ecosistema che spinge in quella direzione. Ma mostra anche un altro punto. La regolamentazione. In che senso? Beh, pensa alla questione della privacy dei dati. Le regole che un paese si dà possono accelerare o frenare lo sviluppo dell'IA. E poi ribadisce una cosa fondamentale. Cioè? I dati. Chi ha i dati e sa come usarli, oggi vince. È il nuovo petrolio, si dice spesso. Ok. Allora proviamo a tirare le somme. L'IA sta davvero trasformando il lavoro. Da una parte crea opportunità nuove, qualificate. Sì, per chi ha le competenze giuste. Ma dall'altra alimenta anche nuove forme di precarietà, la polarizzazione di cui parlavi, disuguaglianze. E le competenze richieste cambiano, velocissime. Esatto. La vera sfida è questa. Come adattiamo la formazione, ma anche le tutele sociali, a questo mercato del lavoro che cambia così in fretta. Un mercato dominato sempre più da algoritmi e piattaforme. È un ripensamento profondo, necessario. Assolutamente. E allora lasciamo chi ci ascolta con una domanda, una riflessione. In questo futuro, dove dati e algoritmi sembrano farla da padrone, qual è o quale sarà quel valore unico, insostituibile, che resta? Profondamente umano nel lavoro. Cosa possiamo portare solo noi?